Storiacce di Raffaella Calandra. A seguito della prevedibile sconfitta militare dell'ISIS in Iraq e Siria, assisteremo a una diaspora terroristica che provocherà tra l'altro il rientro nei paesi di origine dei reduci, tra i quali ci saranno i delusi e gli irriducibili, che sono un po' le categorie alle quali siamo abituati anche a classificare i terroristi di casa nostra. E dunque oggi, davanti al terrorismo internazionale, la risposta deve essere la stessa degli anni di piombo davanti a irriducibili o pentiti? Di sicuro la questione non può essere solo controllare e arrestare eventuali jihadisti, ma per allontanare il rischio la questione è soprattutto deradicalizzare. Brutta parola per intendere allontanare l'odio, allontanare l'estremismo, allontanare la violenza a favore invece dell'integrazione, che passa anche insegnando ad estremisti islamici il rispetto delle donne. E così i giudici cominciano ad imporre lezioni di democrazia, dialogo e tolleranza oltre al carcere a chiunque venga condannato per terrorismo internazionale. L'eguaglianza dei cittadini, della diversità culturale e religiosa, i diritti universali, il rapporto fra sharia e ordine pubblico, la condizione della donna, i simboli religiosi e l'abbigliamento femminile. Contro il terrorismo, lezioni di rispetto delle donne, lezioni sull'abbigliamento delle donne occidentali, contro il rischio di attentati, lezioni di diritto e soprattutto di tolleranza e dialogo, perché la salvezza passa attraverso la conoscenza. I filosofi lo sostenevano da sempre, gli storici lo ricordano ai politici e ora i giuristi provano a metterlo anche in pratica, contro la minaccia che più di tutte spaventa le nostre vite, il terrorismo islamico. La salvezza passa dunque anche attraverso la conoscenza. In sostanza è questo il messaggio profondo della sentenza del Tribunale di Bari, che ha imposto ad un uomo accusato di terrorismo internazionale, un italiano che sul web si era avvicinato al califfato e nella vita vera voleva fare infibulare le figlie, ebbene per lui i giudici hanno stabilito, oltre all'obbligo di dimora, il divieto per 2 anni di usare internet e anche la frequenza di corsi universitari finalizzati al recupero, a conoscere e quindi a capire. Perché è questo quello che tutti, dagli investigatori ai magistrati, agli esperti di terrorismo, ora dicono, che non può passare solo dall'azione penale, dai controlli, cioè dagli arresti e dal carcere, la lotta al terrorismo e soprattutto la repressione. Ma tutto questo passa da un lento, profondo e meticoloso processo di deradicalizzazione, fatto anche di lezioni all'università, un percorso che ci racconta il rettore dell'Ateneo Barese, Antonio Felice Uricchio. L'attività si svolge su più moduli didattici che ovviamente hanno ad oggetto non solo la deradicalizzazione, ma soprattutto l'attenzione sui diritti universali, sui diritti umani, sulla cultura, nel rapporto fondamentale fra conoscenza degli istituti giuridici e sviluppo della cultura anche nella prospettiva dell'integrazione sociale. Quindi i moduli sinteticamente riguardano l'eguaglianza dei cittadini, della diversità culturale e religiosa, i diritti universali, il rapporto fra e ordine pubblico, la condizione della donna, i simboli religiosi e l'abbigliamento femminile, l'atteggiamento dello Stato costituzionale di diritto nei confronti di fedeli e non fedeli degli ati, e poi soprattutto il tema forte dell'inclusione e dell'integrazione sociale, che costituisce la vera chiave di volta rispetto alle attività di deradicalizzazione. Avete stabilito un percorso inserendolo all'interno delle lezioni già in calendario nel vostro Ateneo? È un percorso individuale che si sviluppa attraverso lezioni frontali e confronti anche con i nostri docenti. Una serie di attività didattiche che muovono dal dialogo, dall'analisi magari anche di testi giuridici e testi di carattere anche sociologico, più in generale anche culturale, e poi sviluppano anche nell'analisi del feedback, del riscontro. Ci faccia degli esempi anche del tipo di lezioni che quest'uomo, diciamo, affronterà anche in questo percorso di conoscenza. Sono appena iniziate, il giorno 3 c'è stata la prima lezione che riguarda il tema dei diritti fondamentali, considerati come espressione della cultura non solo occidentale ma della cultura universale. Cerchiamo di privilegiare quegli elementi anche di comunanza che prevalgono anche nel nelle carte fondamentali, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e nella dichiarazione dell'ONU, e poi guardiamo anche la loro applicazione concreta nei diversi contesti territoriali. Quindi un'analisi non solo su testi normativi, ma anche allargata, se vogliamo, a scenari più estesi dal punto di vista anche geopolitico. I nostri docenti sono docenti di varie discipline, non solo di carattere giuridico ma anche di carattere sociologico. Questo confronto, che viene svolto in un'aula destinata, credo potrà consentire anche di far maturare anche una consapevolezza da parte anche del destinatario della nostra attività formativa sulla importanza anche del dialogo fra mondi e soprattutto della comunanza anche di valori che prescinde anche dai radicamenti di tipo territoriale o religioso. Quindi a lezione va a lezione di tolleranza e di dialogo in sostanza. Sì, certo, è fondamentale il rispetto, la tolleranza, perché crediamo che sia il miglior antidoto rispetto anche alle pratiche violente e ancora di più terrorismo. Ecco, a conclusione ci sarà una vostra relazione, come funzionerà, ecco, e quando più o meno ci sarà la conclusione del percorso? Sì, abbiamo relazioni periodiche e naturalmente un confronto continuo col Tribunale di Sorveglianza. E la relazione finale più o meno è prevista quando? Dipende anche da come si evolve l'attività. Abbiamo una tempistica rigida, ma ovviamente anche legata anche allo sviluppo dell'attività. Sono i numeri e sono le storie degli attentatori a confermare la necessità di cercare nella società, oltre che nelle forze di polizia, la principale difesa dello jihadismo. Sono le vicende di mancata integrazione e di disagio sociale, ad esempio, dell'uomo che ha fatto strage a Nizza con un camion, o sono ancora le storie di uomini espulsi dall'Italia che, come vedremo tra poco, si stavano radicalizzando una volta respinta la loro richiesta di asilo nel nostro paese, ad esempio. E sono ancora i racconti di chi è in carcere a confermarlo. 365 sono i detenuti islamici a rischio radicalizzazione al momento. Di questi, 165 sono i monitorati, quelli più pericolosi, cioè quelli che hanno già condanne per proselitismo. 76 quelli attenzionati, per dirla in gergo tecnico, perché hanno atteggiamenti che fanno supporre la vicinanza all'ideologia jihadista. 124 infine quelli da tenere sotto controllo, perché hanno contatti con gli altri. E per aprire un dialogo anche con loro e con tutti i detenuti provenienti da paesi musulmani è stato avviato un progetto con un obiettivo ambizioso: sostituire prediche di odio con messaggi di tolleranza attraverso l'incontro in 8 carceri con 4 donne guide spirituali e con imam accreditati. Controlli di polizia sui comportamenti, sugli atti o quello che può essere qualche segnale che indichi un rischio di radicalizzazione da parte dei soggetti. Un'altra cosa, ripeto, è garantire la fede religiosa e sicuramente la religione, il dialogo, la mediazione che possono avere, principalmente anche le donne, quello è fondamentale. Di emergenza nelle carceri Luigi Pagano ne ha viste tantissime nella sua lunga carriera, alla guida di varie carceri, poi ai vertici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e ora di nuovo come sovrintendente degli istituti penitenziari lombardi. È per questo che è ancora più attento nel tenere distinte le iniziative di controllo su detenuti a rischio radicalizzazione dai progetti pensati per garantire l'esercizio di tutte le fedi e, come positivo effetto collaterale, allontanare pericoli di estremismo. Si può deradicalizzare un potenziale jihadista anche solo citando i versi del Corano. Allah cancellerà le loro azioni peggiori e li compenserà per ciò che di meglio avranno fatto. Un versetto citato in un incontro sul perdono da Soraya Uli, una delle imam inviata nel carcere lombardo di Bollate. Il progetto più interessante che in Lombardia abbiamo messo in piedi è quello proprio che si intitola Educare al pluralismo religioso, perché riteniamo che, al di là dell'osservazione che ho cooperiamo con la polizia penitenziaria su delle persone che potrebbero essere sospette di radicalismo religioso, noi pensiamo che anche il dialogo un po' con tutte le confessioni religiose in qualche maniera possa aiutare. Coinvolgendo anche le unità, l'unione delle comunità appunto musulmane, sono state previste, possiamo dire, delle lezioni di dialogo utilizzando delle imam donna, se non sbaglio. Gli imam per garantire naturalmente l'esercizio del diritto a seguire la propria religione all'interno. Questo. Ma invece questo accordo con la LUCOI di fatto, cioè che sì, è la più forte organizzazione islamica italiana, ecco come è nata e che cosa appunto concretamente prevede? All'inizio il problema degli imam e quindi della possibilità di esercizio del diritto di religione all'interno era un po' vincolata da determinate situazioni, cioè era difficile trovare l'imam, era abbastanza difficoltoso. L'unico invece dà la garanzia, naturalmente anche in termini di sicurezza. Ma è una normale incontri, diciamo, di religione che però diciamo che possono favorire in questo momento o quantomeno allontanare il rischio che detenuti che effetto, sono. È un effetto collaterale, auspicabile sicuramente, che la conoscenza aiuta sicuramente tutti quanti ad evitare posizioni di radicalismo. Che tipo di segnali siete preparati a cogliere? Possono essere comportamenti che all'improvviso cambiano, può essere un'uscita dalla comunità con un isolamento di fatto, gli iscritti, tutto ciò che in qualche maniera può richiamare quel tipo di fenomeno terrorismo all'esterno. Il passo successivo di questo percorso è l'introduzione anche in Italia di una legge sulla deradicalizzazione e il tema forse per la prima volta sembra davvero all'attenzione anche in Europa, dopo ripetuti attentati e centinaia di morti, dopo che le indagini sui sospetti jihadisti espulsi dal nostro paese suggeriscono, diciamo così, questa strada, oltre a quella della repressione di polizia. E da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Storiacce. A seguito della prevedibile sconfitta militare dell'ISIS in Iraq e Siria, assisteremo a una diaspora terroristica che provocherà tra l'altro il rientro nei paesi di origine dei reduci, tra i quali ci saranno i delusi e gli irriducibili, che sono un po' le categorie alle quali siamo abituati anche a classificare i terroristi di casa nostra, no? I primi ovviamente da deradicalizzare e i secondi che costituiranno invece un pericoloso riferimento, quindi un polo aggregativo per i soggetti a rischio di radicalizzazione. La principale difficoltà è quella proprio di rintracciare soggetti autonomi non direttamente collegabili ad organizzazioni terroristiche. Sono i famosi lupi solitari, quelli che imparano da soli, seguendo le istruzioni sul web, le tecniche di realizzazione di un attacco il più sanguinario possibile, quelli più difficili da rintracciare e quelli che più facilmente si lasciano convincere da leader estremisti in cerca di proseliti. E allora qui, a queste persone che si guarda per sottrarle alla fascinazione dell'odio jihadista prima che sia troppo tardi. In questo percorso sono coinvolti tutti, le forze dell'ordine nel sorvegliare e indagare, ma anche la società civile, a cominciare dalla scuola che ad esempio già una volta ha segnalato i toni sospetti di uno studente in una scuola. Sono proprio le storie allora degli espulsi dall'Italia o di quelli già finiti nelle indagini a confermare che l'approccio deve essere più ampio. Storie come quelle elencate dal comandante del Rosso dei Carabinieri, Pasquale Angelosano. La principale difficoltà è quella proprio di rintracciare soggetti autonomi non direttamente collegabili ad organizzazioni terroristiche. Nella maggior parte dei casi i fattori principali che spingono alla radicalizzazione sono in prima istanza l'emarginazione, l'isolamento e un forte sentimento di assio e rivalsa verso l'Occidente. Mentre i fattori religiosi, e qui cito uno studio del PKA tedesco del dicembre 2012, i fattori religiosi risultano secondari tra quelli che motivano la scelta jihadista. Appare significativo in tal senso citare il caso del cittadino pakistano Farooq Aftab, che è stato espulso il 2 agosto del 2016 perché, dopo aver ricevuto il diniego alla richiesta di cittadinanza, aveva evidenziato una forte avversione nei confronti dell'Occidente e un progressivo sostegno ideologico allo Stato islamico, fino a manifestare il desiderio di recarsi in Siria o di compiere attentati contro attività commerciali e obiettivi sensibili presenti nel nostro paese. Non si può quindi fare a meno di coinvolgere in maniera diretta e attiva le comunità etnico-culturali di riferimento del mondo della scuola, del lavoro, della sanità, come si diceva poco fa. Voglio ricordare a questo proposito il caso del cosiddetto pugile dell'ISIS, il cittadino marocchino Motarik Abderrahim, arrestato il 28 aprile scorso. Questo cittadino marocchino era solito salire sul ring facendo indisturbata mostra di una casacca nera con impresso il simbolo del califfato islamico. Si è avuta la conferma della mutata strategia dell'ISIS volta a incoraggiare il compimento di attentati in Occidente, come documentato dai contatti di Motarik intrattenuti tramite WhatsApp, e a conferma della funzionalità di un approccio multiagenzia, un compito importante svolto dalla scuola. Cito l'indagine condotta sempre da Ross a Padova, che ha consentito di identificare nel luglio del 2015 una foreign terrorist fighter marocchina, partendo proprio da una segnalazione pervenuta dalla dirigente scolastica, perché si era insospettita per il contenuto dei temi scolastici redatti dalla studentessa. Internet riveste un ruolo centrale nella manovra preventiva, in quanto luogo virtuale dove avvengono i più numerosi processi di autoindottrinamento ideologico e di formazione pratico-militare grazie all'elevato livello di anonimato e riservatezza. C'è anche una differenza negli strumenti utilizzati, quali Telegram e Twitter sono attualmente i mezzi privilegiati per la pubblicazione del materiale di propaganda terroristica e dai contributi apologetici, mentre Facebook viene utilizzato per stabilire i contatti tra i simpatizzanti dello Stato Islamico. Funzioni diverse per social diversi. Come racconta anche la storia dell'attentato di New York, l'uzbeko che col pulmino ha falciato ciclisti a Manhattan, il califfato diffonde sui propri siti le sue indicazioni precise, degli obiettivi da colpire, degli strumenti da usare, delle tecniche da rispettare, per poi rivendicare la strage e la sconfitta nelle trincee siriane. Come abbiamo già sentito nella prima parte di Storiacce, potrebbe far aumentare i pericoli per le nostre città, destinazione di possibili foreign fighter di ritorno che proveranno a trovare altri seguaci, ed è anche per questo che urge mettere a punto tutti gli strumenti per evitare il proselitismo, comprese misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo, elencate in una proposta di legge da Andrea Manciulli e Stefano D'Ambroso, organizzatori di un convegno alla Camera su questo tema. Con la sconfitta del califfato reale, il califfato virtuale rischia di diventare ancora più importante. Mentre nei primi sei mesi del 2017 si era individuata una perdita da parte delle attività terroristiche online, negli ultimi mesi c'è stata una ripresa importante di utilizzo da parte delle attività terroristiche online, non necessariamente sui social network, ma nei gruppi di scambio, diciamo nelle chat. C'è un lavoro secondo me molto importante che va fatto di monitoraggio, ma la cooperazione con il settore privato è fondamentale. Adesso compagnie come Facebook, Google e Twitter eliminano il contenuto prima che questo sia addirittura uploaded sul sistema. Credo che questo punto debba diventare parte dell'attività di questa legge. La radicalizzazione offline, quindi quella che avviene nelle carceri, nelle scuole, nelle comunità locali, insieme alla radicalizzazione virtuale, devono essere affrontate insieme. L'accordo con i big del web, da Google a Facebook a Twitter, è stato uno dei temi centrali del G7 dei ministri degli interni ad Ischia, perché ad esempio si ostacoli il più possibile la diffusione delle litanie di odio in rete, con un algoritmo che li cancelli, perché la vera questione è evitare il proselitismo e in un certo senso detonare la bomba pronta ad esplodere. Se non è pensabile controllare tutti, bisogna allora cercare il più possibile di rieducare chi nutre desideri di violenza. È per questo che la sfida della lotta al terrorismo non passa solo attraverso le forze di polizia. Parola del capo della divisione antiterrorismo della Polizia di Stato, Claudio Galzerano. Ieri mi ha scritto una collega: abbiamo un problema con un minore che è radicalizzato, e mi chiede a che punto è la legge sul contrasto alla radicalizzazione, perché io non so che cosa fare. L'attivazione deve passare per le procure della Repubblica, il che non credo che sia esattamente la cura migliore. Io credo che invece una soluzione extra giudiziale di questa tipologia di problemi sia auspicabile. Nel contrasto all'estremismo che porta al terrorismo, la soluzione è sempre la misura di polizia, ma esiste tutta un'altra area di opacità che questa legge porterà a far emergere. La diagnosi precoce di questi percorsi di radicalizzazione diventa un elemento fondamentale. Per il momento il percorso di deradicalizzazione tracciato dalla legge è quello all'interno del carcere. Io auspico si possa anche allargare al di fuori del carcere per arrivare nella comunità civile. Quante volte, dopo vari attentati in Europa, abbiamo raccontato il cammino dei jihadisti, di come ad esempio si siano spostati dall'Italia alla Germania, come è stato per l'attentatore di Berlino, o abbiamo raccontato di come l'Italia sia stata spesso paese di passaggio per molti terroristi, o di come esistessero già, sparse nei vari paesi, notizie utili che avrebbero casomai aiutato nel prevenire gli attentati. E ogni volta nei commenti si sollecita la creazione di una procura unica europea. Ora forse una effettiva maggiore collaborazione tra gli Stati membri ha permesso di sventare diversi attentati, come ricorda Nathalie Griesbeck, che presiede la Commissione Speciale Europea sul Terrorismo, in un intervento al dibattito alla Camera. Ci sono molti meno combattenti stranieri che tornano in territorio europeo, o perché sono caduti sul teatro di guerra fuori dall'UE, o perché rimangono là. E allo stesso tempo ci sono più di 8.000 cittadini europei che sono entrati nei ranghi delle organizzazioni terroristiche. E non è che ci sia un profilo unico della persona radicalizzata, in generale giovane, ma che non riguarda soltanto gli uomini. A volte ci sono delle donne che addirittura usano i bambini. Quindi bisogna vedere come i nostri concittadini, i nostri giovani nelle nostre città possano arrivare a quel punto, in che modo idee di morte estremistiche riescono a prosperare nelle nostre società. Anche in questo caso, ancor più che la polizia, è la conoscenza che ci salverà. E voi cosa pensate di questi progetti di deradicalizzazione? Cosa pensate del fatto di mandare degli estremisti a lezioni di rispetto delle donne, ad esempio? Se vi va, scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce, oppure su Twitter ci trovate all'account Raf Calandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Ciao a tutti da Raffaella Calandra.